Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. I titoli di efficienza energetica, detti anche certificati bianchi, sono stati introdotti per la prima volta proprio da noi italiani. È un meccanismo che molti paesi europei ci stanno copiando e più o meno funziona così. Viene riconosciuto un certificato bianco per ogni TEP risparmiato grazie ad un intervento di efficientamento energetico. Un TEP è l'equivalente energetico di una tonnellata di petrolio. Ogni certificato bianco è a tutti gli effetti un titolo che può essere venduto, acquistato e anche contrattato all'interno di una apposita borsa. L'aspetto più interessante del meccanismo dei certificati bianchi, e che è quello che ci viene un po' anche invidiato, è il modo in cui viene calcolato il risparmio, ovvero come il risparmio energetico addizionale ottenuto grazie ad una tecnologia efficiente che si è deciso di installare, ma efficiente rispetto a cosa? Rispetto alla tecnologia media presente sul mercato. Insomma, se sostituisce un macchinario estremamente inefficiente con uno mediamente efficiente, non avete diritto a nessun titolo. Se invece superate l'efficienza media, prendete tanti titoli quanto più è spinta la tecnologia che avete scelto. Il mercato dei titoli funziona perché le grandi aziende distributrici di energia sono costrette ad acquistarne un tot e per farlo possono ricorrere, come abbiamo spiegato, a vari canali. Dal lato dell'offerta, invece, il ventaglio di soggetti che possono vedere remunerati i propri sforzi di efficientamento energetico con i certificati bianchi, che quindi poi possono anche cederli, è invece molto più ampio, e tra questi ci sono molte industrie che però finora hanno sfruttato poco questa possibilità. Cerchiamo allora di capire cosa comporta attrezzarsi per portare a casa un po' di certificati bianchi. Ci facciamo aiutare in questo da Daniele Forni, che è responsabile tecnico di FIRE, la Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia. Buonasera Forni. Buonasera Medis. Allora Forni, intanto chi ha diritto a richiedere questi certificati bianchi? Dunque, da fine 2007 anche le aziende con obbligo di nomina degli energy manager e che hanno realmente nominato l'energy manager possono direttamente richiedere i titoli di efficienza energetica o certificati bianchi. Parlo di aziende, ma anche qualsiasi soggetto obbligato alla nomina e che abbia nominato può richiedere, quindi in teoria anche, non so, un comune, un ospedale e così via. D'accordo, c'è proprio una quota di consumo minima, no, per rientrare in questi soggetti obbligati? La quota minima per l'obbligo è 10.000 TEP nel settore industriale e 1.000 TEP per i settori non industriali. Perfetto, allora qual è la procedura che tipicamente bisogna seguire per chiedere questi certificati bianchi? Il meccanismo prevede sia una procedura semplificata attraverso delle schede. Attualmente ci sono 26 schede, ma poi alcune sono doppie, altre sono state eliminate, eccetera, eccetera. E queste schede sono di tipo standardizzato, in cui per ogni unità installata si riconosce una certa quantità di risparmio, sì, o analitiche che richiedono anche alcune misurazioni. D'accordo. Per andare a calcolare con un algoritmo contenuto nella scheda direttamente il risparmio. D'accordo. Questo è un metodo semplificato, però per esempio per il campo industriale ci sono praticamente solo due applicazioni che possono essere presentate, e quindi sono gli inverter per sistemi di pompaggio e i motori ad alta efficienza. D'accordo. Se non si ricade all'interno di queste schede, bisogna andare a fare una presentazione a consuntivo. Cioè, insomma, misurare a posteriori quanto è stato il risparmio effettivo a seguito di un intervento di efficientamento. Siccome nel settore industriale, come dire, la quantità di interventi possibili è enorme, non aveva senso fare delle schede standardizzate. Qual è la difficoltà di fare questo tipo di misurazioni, di questo metodo a consuntivo? Beh, quello di cui hai già parlato all'inizio, nel senso che se io uso una scheda standardizzata del concetto di addizionalità non mi devo preoccupare perché ne tiene già conto la scheda, e quindi io guardo la scheda, leggo la scheda e l'applico. Questo principio per cui si prende in funzione di quanto si è risparmiato rispetto a una media. Rispetto alla media. Se invece non ho una scheda, devo andare a cercare di capire io, andare ad identificare io qual è questa media di mercato. La media di mercato sarà quindi la baseline dalla quale calcolare il mio risparmio, la mia addizionalità. In Italia è un po' problematico perché le statistiche, di statistiche non ce ne sono tante, bisogna andare un pochino a magari a cercarle o a andare a trovare magari tra i cataloghi dei venditori, andare a fare una ricerca tra i venditori di quella tecnologia, almeno i principali venditori, o andare a trovare dei limiti minimi imposti dalla legge che possono essere utilizzati in questo modo, in alcuni casi anche accettati, li bisogna poi andare d'accordo a vedere. Ecco, accettati da chi? Accettati dall'Enea. Sì, perché l'autorità ha passato all'Enea tutta la valutazione dei risparmi conseguiti. È l'energy manager che fa questa operazione, che mette la firma su queste schede. Che impegno richiede questa operazione? Perché il fatto che ne abbiano approfittato così in pochi fa pensare che sia particolarmente laborioso. Dunque, per quanto riguarda le schede semplificate, l'impegno è davvero minimo. Se invece parliamo di schede analitiche, bisogna aver installato dei sistemi di misura e andare a registrare le misurazioni fatte. Se invece parliamo di andare a presentare un consuntivo, bisogna anche proporre all'Enea un algoritmo per il calcolo del risparmio. E per sapere come fare si può per esempio frequentare uno dei corsi che FIRE organizza proprio in collaborazione con l'Enea. Quando è il prossimo? Il prossimo è a metà dicembre di quest'anno. Va bene, grazie Daniele Forni. Buonasera, arrivederci. Questo è tutto, domani un breve vademecum su come ottenere le detrazioni fiscali per l'efficientamento energetico, il famoso 55%. Buona serata.